Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi voglio parlarvi del saturimetro e per farlo in linea con noi il professor Sergio Arari, direttore della pneumologia al San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di clinica medica presso l'Università Milanese. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Saturimetro, un po' come il termometro di questi tempi, è utile avere a casa questo strumento facile da utilizzare e a basso costo per avere un po' un quadro della situazione, per misurare l'ossigenazione nel sangue e capire se ci sono magari i primi segnali di una polmonite quando magari la situazione non è ancora ben chiara. Professore, questo è il messaggio che abbiamo recepito, ma ci aiuta a entrare un pochino dentro al funzionamento del saturimetro, quando utilizzarlo, come funziona, se è attendibile? Allora, prima di tutto il saturimetro è uno strumento molto semplice, grazie alle tecnologie moderne, che ci dà informazione sulla saturazione dell'emoglobina per l'ossigeno e quindi indirettamente sulla quantità di ossigeno che hanno i nostri tessuti e che circola nel nostro sangue. L'altra informazione che ci dà è la frequenza cardiaca. Sono strumenti affidabili, devo dire che ormai costano molto poco e sono molto facilmente ormai reperibili rispetto alla fase più acuta della pandemia, dove erano diventati rari. Sono strumenti immediati, basta mettere dentro il dito, attendere qualche secondo che si stabilizzi il valore e abbiamo la quantità di la frequenza cardiaca e la saturazione. La saturazione è variabile in funzione di più cose, ma per essere molto schematici, prima di tutto una persona anziana ha una saturazione un po' più bassa di un giovane. Seconda cosa, se uno ha la febbre la saturazione scende un pochettino. Terza cosa, magari uno ha di base una saturazione più bassa perché ha per esempio una bronchite cronica, un problema cardiologico eccetera. Quindi è bene prima di tutto sapere qual è la propria saturazione di base in modo da sapere da dove si parte. E poi quello che si monitora quando c'è un sospetto clinico di una polmonite interstiziale da SARS-CoV-2 oppure di altre manifestazioni cliniche è il delta, cioè quanto scende la saturazione. Questo lo possiamo fare a riposo, monitorando quindi qual è il nostro valore basale e quanto scende, oppure possiamo anche fare dei piccoli esperimenti, per esempio salendo le scale o facendo un percorso in casa per vedere se con uno sforzo anche limitato come questo ci sono delle variazioni. Quali sono i valori di sicurezza? Ecco. Noi sostanzialmente, normalmente un soggetto sano, poi con variazioni che, come dicevo, dipendono anche dall'età, dalle performance dei propri polmoni, del proprio apparato cardiorespiratorio, la saturazione è al di sopra del 95%. Di fronte a una situazione di sofferenza, malattia, febbre, eccetera, eccetera, può scendere, possiamo ritenere accettabile una discesa anche a valori attorno al 92%, sotto questo valore è bene in qualche modo avere dei campanelli d'allarme e quindi contattare le strutture deputate a gestire situazioni più impegnative. Professore, quindi valori tra 95 e 100, la presenza di febbre fa la differenza? Perché questi valori possono scendere leggermente? Sì, con la presenza di febbre, cioè se uno normalmente ha 95 e poi se la misura con 39 di febbre è normale che scenda a 93, però ripeto, direi che il valore, adesso poi non esiste un valore esatto, però diciamo che la forchetta che comincia a metterci in allarme è fra i 92 e i 90, non scenderei sotto i 90, cioè sotto i 90 bisogna comunque gestire il paziente, certo, in una situazione invece di sicurezza come può essere quella di un ospedale. Poi ripeto, questo dipende, ci sono, certo, anche pazienti che sono già in ossigeno a casa, che avranno hanno valori diversi, ma diciamo che nella popolazione generale vale quello che ho appena detto. Professor Arari, chi risulta positivo al Covid spesso si cura, viene curato a domicilio, soprattutto nelle forme lievi, ma quali sono i sintomi di allarme? Le faccio un esempio: la febbre che non scende, mal di pancia con diarrea, una forte astenia, dolori muscolari, il mal di testa? Ma tutti quelli che lei ha nominato sono tutti sintomi che fanno parte del corteo sintomatologico di questa malattia virale, come anche le artromialgie, cioè i dolori muscolari. Sono sindromi che molto spesso rassomigliano all'influenza come sintomatologia. Nella maggior parte dei casi vale il riposo domiciliare, gli antipirettici, bere acqua per compensare le perdite che si hanno con la sudorazione profusa legata alla febbre e anche per idratare le secrezioni, e non necessitiamo di altri trattamenti. Sul territorio si tende spesso ad abusare di antibiotici, di eparine di basso peso molecolare, di cortisonici, ma questo uso non è a tutt'oggi giustificato nei pazienti a domicilio, almeno nella maggioranza di questi. Per ciò che riguarda i sintomi di allarme, in realtà tutti questi sono sintomi che accompagnano appunto la malattia virale. Più che altro la persistenza della febbre che può allarmare dopo il quinto giorno, se uno continua ad avere febbre alta. Tutti gli altri sono sintomi che possono durare in un tempo variabile, soprattutto l'astenia, la tosse, quindi non sono misurabili come criteri di gravità. Credo che appunto il saturimetro in questo possa essere utile, perché invece ci dà una misura appunto specifica, certo, che in qualche modo è obiettiva di quello che sta succedendo. E non è anche legata al nostro stato emozionale, al nostro come ci sentiamo, alla situazione più contingente della giornata in cui uno si sente meglio o peggio. Professor Arari, olfatto e gusto. La perdita dell'olfatto e del gusto è uno di questa infezione virale, come peraltro altre infezioni virali, in questa è più frequente l'alterazione dell'olfatto e il gusto, sono sintomi abbastanza caratteristici, soprattutto in questa fase pandemica devono ovviamente far pensare al coronavirus. Detto questo, sono sintomi che poi regrediscono nel tempo, ma richiedono, per scomparire completamente, spesso mesi. Professor Arari, la dieta al tempo del Covid deve cambiare? In realtà non abbiamo indicazioni precise dal punto di vista scientifico, quindi valgono le regole generali di un'alimentazione varia, sana, evitando soprattutto l'abuso di alcolici o comunque di sostanze tossiche, e poi un'alimentazione, come dicevo prima, varia anche con verdure, frutta e così via. Non ci sono poi altre indicazioni specifiche. Il patrimonio vitaminico normalmente dell'organismo è sufficiente a far fronte alla situazione clinica e non necessita di implementazioni particolari, quindi quelli che sono i polivitaminici o quelli che sono un po' questi prodotti da banco che vengono reclamizzati come supporto alle difese immunitarie non hanno sinceramente una solida base scientifica per essere utilizzati. Non hanno controindicazioni. Professor Arari, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Ci sentiamo presto. Buona giornata. Arrivederci. E per oggi è tutto. Come sempre vi aspetto dopo le 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per una nuova intervista video sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Buona giornata.